con Roberto D'Alessandro della quinta edizione del Festival Roma Comic Off in 10 teatri della capitale dal 10 al 29 settembre 2019. Roberto, ben trovato. Ben trovato a te Federico, buongiorno a tutti. Raccontiamo cos'è questo festival. Il Comic Off non ha un vero sbarramento d'accesso alla partecipazione, nel senso che escludiamo solo gli spettacoli che siano razzisti, che offendano, come dire, la morale pubblica, che si facciano di pedofilia, queste robe qua. E per il resto accettiamo chiunque. Basta che sia rigorosamente comico. Ecco, questa è l'unica dote che deve avere uno spettacolo per essere accettato. Mi sono inventato questo festival, poi grazie a Domenico Franceschelli lo gestisco ormai da 5 anni perché è arrivata la quinta edizione. Quest'anno partecipano 10 teatri, sono più di 12 sale, più di 50 spettacoli, coinvolgiamo oramai migliaia di persone, ed è una kermesse che è attesa appunto a settembre, perché a settembre l'offerta culturale non è teatrale, non è grande, anzi non c'è quasi nulla, e quindi diventa un appuntamento interessante. Come era cominciato tutto? Ma è cominciato tutto quando sono andato ad Avignone un bel po' di anni fa, e ho visto quanto era bello questo festival, quanto è bello andare per teatri, là ci sono centinaia di spettacoli nel mese di giugno. Sarebbe bello realizzare la stessa cosa. Certo, Roma è un po' più dispersiva rispetto a quella cosa, ma potrebbe ospitare migliaia di spettacoli. Certo, bisognerebbe fare degli investimenti, forse ci sono anche delle idee che non mi sono ancora venute. In 5 anni il festival si è standardizzato, ma non avendo avuto grosse spinte, non riesco a farlo crescere per come vorrei. Però è solo al quinto anno, forse ci vuole semplicemente un po' di pazienza. Un bilancio delle altre 4 edizioni, cosa ci dice? Che è servito all'intento che mi ero proposto, cioè molte compagnie adesso sono inserite in cartelloni di teatri anche interessanti della capitale, importanti, ci sono sempre più teatri che si interessano al Comic Off, nascono delle realtà, molte sono semplicemente meteore, altre si stanno affermando, era un po' l'idea per cui è nato, molti vengono presi da produttori, acquistati gli spettacoli, cioè delle cose succedono. Non per tutti, per alcuni, ma fa parte della vita, credo. Hai avuto modo di vedere qualcosa di questi spettacoli proposti per questa edizione? No, perché molti debuttano adesso, per cui sono delle prime assolute, fanno gli spettacoli proprio apposta per il Comic Con. Gli altri no, li vedremo adesso dal 10 al 29 di settembre che vanno in scena, andremo a vedere un po' di roba. Ci sono diversi premi in denaro, sai. Senti, ci sono nomi che erano presenti nelle scorse edizioni? Sì, c'è una recidiva abbastanza alta di gente che ha partecipato e ripartecipa. Generalmente ripartecipa chi ottiene dei risultati, chi non li ottiene si scoraggia, non sempre, però insomma, vorrebbero immediatamente dei risultati, ma a volte anche chi non l'ha ottenuti all'interno del festival li ha ottenuti poi fuori dal festival, perché gli spettacoli che hanno realizzato li ho visti in altri teatri, che poi sono stati scritturati. Certo, la gratitudine è il sentimento del prima, mai del dopo. Nessuno ti verrà a ringraziare, ma a noi non interessa che ci si ringrazi, ci interessa invece che ci sia del movimento, che quest'humus così vivo nella capitale, che sembrerebbe invece un momento totale, come dire, sembra che abbiano sparso il sale sulla terra dopo l'incendio, e che non ci sia nulla, un momento così, invece sono i momenti che tutto genere, c'è molta creatività, soprattutto nei giovani, che non hanno proprio, è diventato quasi impossibile avere delle vetrine e delle possibilità. Per quanto vedi, che direzione sta prendendo la comicità? Cercare una innovazione della comicità lo trovo un po' ridicolo, nel senso che si ride da sempre per le stesse quattro cose, è il modo in cui viene detto e i tempi comici che ci servono per chi lo dice. Più che altro si trovano dei talenti ogni tanto, e cioè Zalone fa uno Zanni, no? È vecchio come il buco. E però funziona, è straordinario, bravissimo, lo sa fare, lo sa benissimo, non è che si è inventato nulla. Ha preso quella roba lì e l'ha messa nella contemporaneità. Tutto qua. Ci dai tutti i riferimenti internet per saperne di più? www.romacomicop.it e trovate tutto il calendario di tutti gli spettacoli sera per sera, e poi ci sono i social, Instagram, Facebook, Roma Comicop, e trovate tutto anche là sopra. La sera del 7, la notte del 7 di ottobre, ci sarà la notte dei Cocci d'Oro al Teatro Marconi, dove avverranno le premiazioni, perché come ti dicevo ci sono dei premi in denaro, vengono le sezioni, quest'anno sono due, commedia e man woman show, cioè spettacoli che fanno una sola persona, poi c'è il premio Andrea Leone che è di 30 euro, c'è il premio Problem Solving di 1000 euro, il premio PCC di 2000 euro, ci sta il premio Teatro dei Servi, Teatro Marconi, Teatro Roma, ci stanno tantissimi premi, il premio Pievisan, quindi daremo tutti questi premi la notte dei Cocci d'Oro al Teatro Marconi, che oramai è diventata una notte attesissima, e l'anno scorso l'abbiamo fatta al Teatro dei Servi, ma non ci siamo entrati tutti, e quindi quest'anno ci siamo dovuti portare al Teatro Marconi, che è più grande. Aspettiamo anche te, vieni pure a trovarci. Benissimo. Quinta edizione del Festival Roma Comic Off in 10 teatri della città dal 10 al 29 settembre 2019. Un saluto e un ringraziamento ad uno dei curatori. Curatori si può dire, Roberto? Curatori, bravo. Oddio, mi sembra di farla una cosa. Curatore fallimentare. Curatore non si può dire. Un abbraccio in bocca. Organizzatori, va bene, perché alla fine questo siamo. Uno degli organizzatori. Allora, un abbraccio in bocca al lupo e a risentirci presto. Grazie a te Federico, grazie a tutti, venite a vederci.